24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 18 minuti e 30 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo mercoledì 11 marzo. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Buongiorno Simone. E agli ascoltatori ci possono raggiungere al 349-238-6666 per gli sms e messaggi su WhatsApp, anche audio, le vostre voci le vogliamo sentire, anche all'800-24-00-24 se volete intervenire in diretta. E siamo anche in diretta su Facebook, ci trovate su Twitter, su Instagram, insomma siamo praticamente ovunque. Simone, come facciamo ogni mattina ormai da qualche giorno, lasciami continuare il mio confronto su come nei paesi a noi vicini stanno trattando i media l'emergenza coronavirus. Ti sia concesso, prego. Ecco, me lo prendo comunque, anche se non me lo concedessi. Vai. Allora, il Guardian, che è un quotidiano fieramente anticonservatore, ebbene, oggi ha un titolo che sembra invece sostenere il governo, l'odiato Boris Johnson. Quindi vuol dire che in una situazione di emergenza anche in Gran Bretagna stanno cominciando ad accorgersi che la cosa è seria. E il titolo del Guardian è che la decisione del governo sarà di ampliare il budget per il coronavirus e per fronteggiare quella che anche lì prevedono essere una grande crisi economica. Mentre i nostri vicini francesi, Le Figaro questa mattina, grande foto del leader cinese, hanno copiato il nostro Sole 24 Ore, quindi grande foto del leader cinese che annuncia che la Cina vede la luce in fondo al tunnel, l'uscita dalla crisi, e poi accanto c'è ovviamente immancabile il titolo sull'Italia in quarantena e però anche il fatto che l'Europa deve coordinarsi come risposta. Una cosa importante da segnalare è che qui stanno tenendo molto basso il ruolo di Macron sulla vicenda, cioè mentre da noi Conte, diciamo, è in prima fila, quindi si prenderà onori e soprattutto oneri di questa situazione. Macron è tenuto molto al riparo e comunque Le Figaro mette in prima pagina una missione importante, che la Francia è solo all'inizio dell'epidemia, stanno cominciando ad accorgersene. Finalmente, dopo il ballo dei 3.500 puffi che si sono riuniti l'altro giorno. Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni, eccoci. Buongiorno a voi, buona giornata. Buongiorno. Lei è in linea Presidente. Lei è in linea con l'idea di chiudere tutto, mi sembra di aver capito, Cirio. Ma guardi, io sono in linea con la Lombardia per una serie di ragioni. Una per una ragione pratica. Lei immagini se la Lombardia chiude tutto e noi che confiniamo con buona parte del mio Piemonte e interagiamo con la Lombardia, teniamo aperto. Correremo il rischio delle scorse settimane quando avevamo misure disomogenee che quasi che il virus seguisse i confini amministrativi delle province o delle regioni, e quindi io credo che ci sia una ragione pratica per cui se il governo deciderà che la Lombardia farà questo passo, anche il Piemonte in qualche modo dovrà essere ricompreso. E in più le aggiungo che noi stiamo vivendo in Piemonte sulla base dei dati epidemiologici che abbiamo trasmesso all'unità di crisi nazionale con tutte le nostre preoccupazioni, noi siamo 7-8 giorni in ritardo rispetto alla Lombardia, tutti i nostri dati ce lo stanno dimostrando, con il problema che noi abbiamo una popolazione in Piemonte molto più anziana rispetto a quella lombarda e quindi l'incidenza dei ricoveri della terapia intensiva su ogni 100 casi che risultano positivi al coronavirus è del 15% invece dell'8-10 che è quello della media nazionale. Quindi vuol dire che noi stiamo correndo più forte e stiamo andando nella direzione di una regione accanto a noi che ha già vissuto prima di noi questo tema. Sulla base di queste motivazioni io dico le parole di Fontana, governatore di una regione che rappresenta il 50% del PIL dell'Italia, se le sue parole sono parole che vanno nella direzione di chiudere tutto, che poi si intende ragionare anche dello stop all'attività commerciale, fare dei ragionamenti credo anche selettivi sulle attività economiche e produttive, io credo che questa riflessione debba essere accolta con grandissima attenzione, del motivo per cui io l'ho sottoposta all'unità di crisi, al comitato scientifico che abbiamo istituito presso la Regione Piemonte per avere già oggi un parere da trasmettere al governo. Senta, Presidente Cirio, il Piemonte è ovviamente una regione che deve fare i conti con una crisi strisciante economica da qualche anno. Pare che il dubbio, no, il grande dilemma sia fronteggiare l'emergenza sanitaria e quindi chiudere tutto o cercare di tenere il piede in due scarpe per non danneggiare l'economia. Lei mi sembra che abbia scelto la prima strada, quindi ha i suoi corregionali che immaginano di dover chiudere esercizi commerciali, ristoranti, eccetera. Che cosa vuole dire, approfittando del nostro microfono, qual è la soluzione? Perché certamente la crisi economica porterà molti di loro a fare i conti con la possibilità addirittura di chiuderlo dopo, quando sarà finita l'emergenza, il loro esercizio. Ma innanzitutto è necessario capire cosa vuol dire fermare tutto e cosa si intende per fermare tutto, perché guardi che i negozi stanno già chiudendo da soli, i bar e i ristoranti pian piano stanno chiudendo da soli. Il problema è sul fermare le fabbriche, questo è il problema su cui io credo debba essere fatta dalle autorità competenti nazionali una valutazione di merito, perché io ai miei corregionali dico solo questo: la Lombardia è la prima regione d'Italia per capacità produttiva e qualità produttiva in termini sanitari, è una tra le prime d'Europa. La Lombardia ha avuto questa sfortuna e sciagura di vivere prima di noi tutti questa epidemia. Se dalla Lombardia, in modo qualificato, cioè sostenuto dai pareri tecnico-scientifici dei medici lombardi, arriva questo monito, io credo che sarebbe dai responsabili quantomeno non verificarlo, quantomeno non sottoporlo al parere tecnico dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Sanità. Io sono convinto che questa, che è emergenza sanitaria, almeno io così l'ho sempre vissuta, è un'emergenza che vada vissuta non facendo scegliere i politici, ma facendo scegliere i medici. La medicina è una scienza. Allora, quello che io sottopongo e l'ho sottoposto ieri e oggi abbiamo nuovamente conferenza delle regioni in contatto col governo, è che gli studi trasmessi dalla Lombardia, gli studi trasmessi anche dal mio Piemonte, vengano valutati dal governo e dall'Istituto Superiore di Sanità e si facciano delle riflessioni tecnico-scientifiche in quale direzione si sta andando. Ecco perché io credo fermamente che il governo debba con urgenza porsi questo tema. Il governo ha ribadito e rivendicato, tra l'altro anche il Capo dello Stato lo ha fatto, che ci deve essere una guida unitaria centrale per la gestione di questa emergenza, va bene. Finalmente da due o tre giorni dopo i pasticci di sabato c'è anche maggior condivisione con le regioni, perché lei pensi che sabato sera io ho ricevuto il decreto alle 20:15 per dare un parere entro le 22 e avevo il sindaco di Asti che alle 20:16 mi chiamava dicendomi: ma io sono in zona rossa, e io dicevo: ma non lo so neanche io che sono il presidente della regione. Lui dice: no, l'ho già letto sul giornale. Lei pensi qual è la difficoltà di gestire? Per cui, per chiudere, il tema è solo questo: la Lombardia è una regione di grandissima forza ed efficienza. Se ci dice questo, stiamola ad ascoltare. Sì. Cirio, c'è qualcosa che potete fare direttamente voi nel caso non ci fosse un'azione decisa da parte del governo? Guardi, le faccio un esempio: il presidente della Campania, De Luca, ha fatto un'ordinanza nella quale chiude, è chiaro che non è la stessa cosa delle fabbriche, però nella quale chiude parrucchieri, estetisti e servizi di questo genere. Insomma, intendo, nel caso il governo non intervenisse e doveste valutare che l'emergenza sanitaria è tale per cui dovete operare autonomamente, siete in grado di farlo, potete farlo, avete intenzione di farlo? Ma guardi, le prefetture ritengono che noi rischiamo di essere in difetto di potere per poterlo fare, nel senso che c'è un decreto del Presidente del Consiglio che va in una direzione, sarebbe da verificare giuridicamente che tipologia di forza uno può avere. Il problema però è che tanto rischierebbe di essere assurdo, perché l'ordinanza della Campania è un'ordinanza che attua il decreto di Conte e dice: visto che tu per tagliare i capelli non puoi stare a un metro dal tuo cliente, ti faccio chiudere. Questo è un po' il meccanismo ed è una roba diversa. qui bisognerebbe fare un ragionamento complessivo, però se lo facciamo a spot rischiamo anche qua di dare solo del danno economico e di non raggiungere il risultato. Però guardi, l'assessore Gallera è stato anche molto chiaro, anche il presidente Fontana, il chiudere tutto è una semplificazione, se mi permettete, un po' giornalistica. Si può fare un ragionamento selettivo. Ragionamento selettivo vuol dire ad individuare naturalmente tutte le attività commerciali che però già autonomamente stanno chiudendo, ma ad andare ad individuare quali settori produttivi possono essere toccati oppure no, quali aziende e quali sono anche le condizioni di lavoro, perché noi abbiamo molte aziende, molte fabbriche dove i lavoratori stanno facendo lavoro da casa oppure hanno i dispositivi di protezione che gli sono stati forniti. Per cui non credo che debba essere semplificato, credo che però il governo abbia il dovere con i tecnici del Comitato Scientifico Nazionale di prendere queste relazioni lombarde e anche la nostra piemontese e valutarle con grande, grande, grande attenzione. Grazie ad Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, per essere stato con noi. Le auguriamo una buona buon lavoro, buon sì, lavoro che ce n'ha da lavorare. Sì, direi grazie molte, buona giornata. Prego. Stava dicendo qualcosa, Cirio? No. No, stavo solo dicendo che colgo anche l'occasione per ricordare a tutti di stare a casa e di non chiedersi tutti ogni minuto, ma questo lo posso fare? La risposta è no. La risposta è no, salvo qualche eccezione. Salvo si esce per andare a lavorare, si esce per andare a comprare i beni di prima necessità oppure se ci sono delle urgenze, altrimenti si resta a casa. Grazie. Buona giornata a tutti. Grazie Cirio, buona giornata. Una pausa e poi parleremo proprio con l'assessore lombardo alla sanità Gallera e col vice ministro dello sviluppo economico Buffagni. Insomma, come capite, il tema è anche quello: chiudiamo le fabbriche oppure no? A tra un attimo. Mattino. Voi pensate alla corsetta? Io ho uno studio medico con 6 dipendenti e la regione me lo fa chiudere. Mi spiegate voi come pagherò gli stipendi? Scusate, ma non si può chiudere tutto nelle regioni in cui il contagio cresce più velocemente? Intanto si potrebbe fare questo invece che chiudere tutta l'Italia, nelle regioni appunto dove il contagio cresce più velocemente. Ok, quello che stanno dicendo un po' la Lombardia e il Piemonte, anche se chiudere tutto, come diceva Cirio, è una semplificazione. Stefano Buffagni, vice ministro dello sviluppo economico, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Maria, prego. Buongiorno Buffagni. Allora, è notizia che di queste ore, che il governo inglese sta assumendo delle informazioni, cioè delle decisioni in campo economico molto, molto forti per fronteggiare l'emergenza virus. In Italia stiamo dibattendo su chiudere le fabbriche, sostanzialmente le fabbriche, perché come ci scrivono anche i nostri ascoltatori, gli esercizi commerciali stanno già chiudendo di loro autonoma decisione. Allora, chiudere le fabbriche significa creare poi un problema per farle ripartire. Lei che è lombardo e che ha conoscenza della struttura economica del nord Italia, che strategia sta condividendo? Mi pare che lei sia d'accordo con chi dice al nord chiudiamo, ma poi il governo ha la possibilità economica di aiutarle le fabbriche che stanno chiudendo o che chiuderanno? Innanzitutto buongiorno a tutti. Credo che dire chiudi tutto è abbastanza semplicistico e vincente come messaggio comunicativo, ma poi quando si governa non si può giocare sulla pelle delle persone. Cioè, chi sta in opposizione può dirti una settimana aprite tutto, la settimana dopo chiudete tutto, un cambio di 3 giorni, come sta succedendo. Noi invece stiamo cercando di affrontare seriamente la situazione, anche perché faccio un esempio: noi abbiamo finanziato alcune aziende che stanno producendo i respiratori famosi, abbiamo chiesto ad alcune imprese di accelerare, diciamo, la produzione finanziandole proprio perché servono. Quindi non è che si può chiudere tutto tu cura, alcune imprese non possono chiudere perché se noi dobbiamo garantire gli alimentari dobbiamo garantire anche tutta la filiera. Quindi credo che l'approccio serio sia quello di limitare assolutamente tutte le attività non prioritarie, questo sicuramente. So che si sta ragionando anche, diciamo, il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio, per capire come gestire questo tipo di necessità, ma al contempo io credo sia fondamentale continuare una campagna nei confronti dei cittadini, perché se tu chiudi le attività commerciali, dai protocolli sanitari per chi invece va al lavoro con le mascherine, pensate tutti quegli infermieri, anzi che io ringrazio ancora i medici che stanno facendo un lavoro straordinario e che mi rendono orgoglioso di essere italiano, perché dimostrano loro quanto il nostro popolo è grandioso, però credetemi, è anche necessario garantire un rispetto delle regole, perché poi se le persone si assembrano comunque trovandosi al parco, andando a giocare insieme a calcio nelle strutture, cioè nel parco, questo non aiuta, ecco, non so come dirlo, ma ho visto alcune scene, una l'aveva messa in una foto anche il presidente della regione Liguria, tutte le persone in spiaggia in Liguria al sole, cioè questo è un problema che non è che risolvi se chiudi le fabbriche, chiudi i negozi, qua bisogna capire che ciascuno di noi può essere portatore sano del virus e può fare danno ai suoi cari, alle persone più care, se non prende le prescrizioni e non segue un protocollo. Dopodiché io da Lombardo da un paio di settimane chiedo molta rigidità, perché sono convinto che le persone per una campagna anche attiva avevano un po' inizialmente sottovalutato il tema, e questo mi preoccupa, perché appunto ciascuno di noi è indispensabile, ciascuno di noi ha un ruolo fondamentale in questa guerra moderna e dobbiamo svolgerlo a pieno, senza sottovalutarlo, anche perché ci sono tantissimi giovani ricoverati. Signori, non è un gioco. Bufagni, la grande preoccupazione delle imprese italiane, ma anche dei negozi, e se lo faccio a dire dei tanti autonomi che continuano a scriverci, a dirci ragazzi di noi non si parla quasi mai, è questa: se si chiude tutto, sempre tra virgolette, perché poi è chiaro, qualcuno ce lo scrive, no? Le aziende farmaceutiche è sperabile che restino aperte, naturalmente, insomma, chi si occupa di queste cose è sperabile che resti aperto, chi si occupa di alimentare deve rimanere aperto e via dicendo, però se chiudete tutto, insomma, come chi mi assicura che poi arrivo a fine anno o addirittura a fine mese? Dunque c'è tutto il tema dei provvedimenti economici per venire incontro a costoro. Che cosa avete intenzione di fare? Un po' il dettaglio delle misure, ma anche più in generale l'impostazione, Buffagni. Allora, innanzitutto noi non siamo nella condizione di dover sperare di non chiudere gli alimentari, noi siamo nella condizione, essendo il governo, di dire che queste filiere non devono chiudere, cioè tutta la filiera per garantire l'approvvigionamento alle persone, tutta la filiera sanitaria, e quindi noi su questo stiamo facendo tutto il lavoro necessario anche il Ministero dello Sviluppo Economico per circoscrivere, con tutte le informazioni anche delle strutture militari che hanno fatto un sacco di esercitazioni su queste realtà, per comprendere quali sono quelle realtà da tutelare nell'interesse strategico del Paese. Dopodiché oggi si voterà lo sforamento del deficit. Io, mio malgrado, non potrò esserci perché sono in quarantena concettualmente, quindi cioè se vado a Roma, anche se io posso con tutte le autorizzazioni, non sono assolutamente negativo, però abbiamo capito che scatta la fobia, quindi c'è stato un accordo tra tutte le forze di rappresentative in Parlamento per fare in modo che si possa fare un voto unanime, il che significa avere 10 miliardi per cassa integrazione straordinaria, vuol dire tutte quelle aziende a cui possiamo dare una mano per evitare di dover far sprecare le ferie o gli stipendi ai propri dipendenti, ma non solo, cioè ci sono tutte le parti di integrazione salariale, diciamo, per quelle aziende dai 5 ai 50 dipendenti, ci sono il sostegno ai lavoratori e ai genitori. Immaginatevi gli infermieri che stanno lavorando, gli infermieri medici che hanno i figli a casa dalla scuola, e quindi non è che non stanno lavorando ma hanno un problema grossissimo. E poi tutte le partite IVA, non dimentichiamoci che noi abbiamo tante singole partite IVA che una parte potrebbero anche rientrare sotto il tema della cassa straordinaria, insomma nella perimetrazione normativa, dall'altra abbiamo la necessità di aiutarle singolarmente, quindi i soldi li stiamo recuperando, il punto è capire come farglieli arrivare le risorse, ma i soldi ci sono ed è importante che le persone lo sappiano, perché qua si parla di vite umane, si parla di persone, si parla di famiglie, si parla di debiti che hanno e che noi gli stiamo bloccando, ci sono delle scadenze fiscali che abbiamo bloccato, quindi credo che e al contempo stiamo anche lavorando per garantire la liquidità alle imprese col fondo centrale di garanzia. Lo amplieremo. Sì, di voi miliardo. Che state al governo, Mi scusi, voi che state al governo dovreste avere anche, e il presidente Conte ha partecipato a una teleconferenza con gli altri premier proprio ieri, dovreste avere anche un'idea di come si stanno muovendo commercialmente gli altri paesi. Lo dico perché in un'intervista al Corriere della Sera questa mattina Matteo Salvini adombra l'ipotesi, non so quanto fondata e lo chiedo a lei, che in qualche modo approfittino delle difficoltà italiane per creare problemi alle imprese italiane, perché dice Salvini stanno facendo fare i controlli alle gomme dei tir, respingono dei prodotti italiani. Allora, due domande. La prima, le risulta una preoccupazione per eventuali guerre commerciali come evoca Salvini? Secondo, che cosa pensa dell'ipotesi di istituire una zona rossa europea? Perché prima o poi il problema sarà di tutti, prima o poi il Covid-19 si estende in maniera massiccia anche agli altri paesi. Guardi, per quanto riguarda la guerra commerciale, credo che il rischio ci sia sempre, non solo per il Covid, ma è un tema che c'è generale. Pensi solo i ragionamenti economici che hanno fatto ciascuna impresa quando la Cina ha bloccato le produzioni e quindi hanno iniziato a mancare le parti di ricambio o degli approvvigionamenti. Dopodiché io credo che ci sia grande parte di paura. Gli Stati europei, i nostri amici, hanno sottovalutato, forse come qualcuno, anche noi inizialmente forse qualcuno ha fatto, e oggi si stanno trovando a pagare un conto di un problema che è fuori dalla portata del controllo di ciascuno di noi, perché, ripeto, è un nemico invisibile. Sto leggendo quotidianamente gli aumenti di casi e credo che la curva sia prettamente simile a quella che ha avuto l'Italia, la curva di crescita, diciamo, dei contagiati, e quindi significa che forse gli altri stati potranno prendere ciò che l'Italia ha impostato come regole, come metodi, per utilizzarle come base di lavoro, e credo che questo sia già un vantaggio, diciamo, che l'Italia può dare ai partner europei. Dopodiché io credo che il tema zona rossa europea o avevamo la forza di farlo subito o oggi ciascuno deve gestire nei limiti del possibile il suo territorio, perché ha un controllo dei dati sanitari in maniera più omogenea, no? Lei sa che in Italia le regioni gestiscono la sanità, ma almeno lo Stato riesce a coordinarle. Aprire o perimetrare un'area più grande diventa molto complicato, quindi perché andarci a sperimentare nuove regole quando serve un coordinamento funzionale? Dopodiché io credo che sia fondamentale ciascuno di noi faccia la sua parte coordinandosi. Per quanto riguarda, e questo vorrei evitare le strumentalizzazioni, nel senso che guardi che quando si parla di contagiati e morti spagnoli e francesi sono persone. Qui non è una gara tra Italia e Francia, a destra e sinistra, qui c'è una questione di responsabilità del tema della vita umana, e credo che questo sia sinceramente la priorità. Dopodiché gestiremo, secondo me, a quel punto sì, a livello europeo, tutti i danni economici e le risposte da dare, in aggiunta a quelle che già noi stiamo perimetrando, perché credo che questa sia la dimostrazione come l'Europa sia ad oggi un'Europa dei nani. E noi oggi ci troviamo in una condizione in cui abbiamo un continente che gioca la partita dei singoli stati su temi così complicati come quelli economici, non credo che abbia vantaggio. Giulio Gallera, assessore alla sanità della Regione Lombardia, grazie per averci raggiunto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Eccoci qua. La prima domanda che le vorrei fare, Gallera, e poi lascio a te la parola, Maria, è sui numeri, perché noi nell'aggiornamento arrivato ieri da Borrelli mancavano una parte dei numeri di contagiati della Lombardia. Oggi abbiamo qualcosa di più? No, mancano effettivamente sul numero dei positivi. C'è una crescita molto contenuta e i nostri tecnici hanno segnalato che probabilmente alcuni laboratori non avevano ancora inviato i dati. Quindi, da che aree, Gallera? Lo sappiamo, giusto per farci un'idea? No. Noi abbiamo ormai 9 laboratori che processano i tamponi. Dopodiché il dato va visto in un arco temporale un pochino più ampio. Non capisco la necessità dell'informazione di aggiornare giorno per giorno. Ma guarda, è successo così 2 o 3 giorni fa, un giorno eravamo bassi, il giorno dopo molto alti perché sono arrivati i tamponi. Ecco, comunque la situazione. Gallera, le posso chiedere una cosa? Come mai noi diamo dall'inizio, si è detto per una scelta di trasparenza, no? Ma diamo costantemente, a volte addirittura all'inizio due volte al giorno, il numero dei contagiati, il numero dei morti, eccetera, mentre sui media degli altri paesi a noi vicini questi conteggi vengono dati molto rapidamente. Cioè, è necessario secondo lei aggiornare costantemente? Poi tra l'altro ho saputo adesso che la ministra della salute britannica è risultata positiva al coronavirus, quindi va a far compagnia a Zingaretti, a Cirio, a tutti i nostri politici e anche al ministro francese che anche lui è contagiato. Non ci sono barriere di nessun tipo. Cioè lei dice che gli altri li danno meno, perché poi ha detto li danno più rapidamente, quindi non ho capito. No, li danno meno, soprattutto i media li danno meno. Cioè, questa è una scelta che ha fatto la Protezione Civile, penso anche di trasparenza. Io non, poi dopo c'è questa richiesta morbosa tutti i giorni di avere i dati, come sa, noi siamo perseguitati da giornalisti che scrivono anche inizialmente dei vari casi nei vari ospedali, le persone infette, i deceduti, però io penso che è un elemento di trasparenza, quindi non vanno sottaciute, vanno gestite, vanno raccontate, vanno evidenziate nella loro dimensione corretta questi fenomeni. Gallera, lo stato a oggi delle terapie intensive degli ospedali lombardi? Guardi, noi, la nostra è una corsa contro il tempo quotidiana, che finora fortunatamente stiamo vincendo noi, e questa è la dimostrazione commovente di un sistema sanitario straordinario. Noi abbiamo il 19 di febbraio avevamo 900 posti in terapia intensiva, di cui 150 circa destinati, diciamo, alle attività specialistiche, istituto dei tumori, BESTA, IEO e le altre complessivamente per i bisogni sanitari, quindi 724 in totale. Li abbiamo già aumentati di 223 e ne stiamo aprendo altri 200 da qui ai prossimi 4-5 giorni, perché abbiamo rallentato le attività nelle sale operatorie e da ogni sala operatoria emergono 3 letti di terapia intensiva. Quindi stiamo facendo una corsa quotidiana che per ora ci vede vincere, nel senso che il numero dei posti che mettiamo a disposizione riesce a essere ogni giorno maggiore dei bisogni, però è veramente sempre più difficile, chiaramente. Buffagni, volevo chiederle che cosa sa delle decisioni che sono state prese e che annullano i collegamenti verso l'Italia, no? British Airways, Wizz Air, SAS hanno tagliato i voli, anzi li hanno proprio cancellati, e tutto questo fa un po' effetto, perché chi deve per esempio viaggiare per lavoro ha una vera ragione di dover uscire dall'Italia, si sente un po' intrappolato. Guardi, innanzitutto mi permetta di salutare l'assessore Gallera, che ringrazio anche per il lavoro che stanno svolgendo nell'interesse di tutti i lombardi, perché credo che al di là di tutto il valore delle persone sia determinante nell'interesse di tutti. Dopodiché, per quanto riguarda i voli, guardi, le dico sinceramente che lo comprendo. Io so che il Ministero degli Affari Esteri sta lavorando proprio per cercare di far capire che la situazione non è così, che è sbagliato questo approccio, però io comprendo anche che la paura a volte fa prendere delle decisioni che sono difficili da governare. Quindi credo che al di là di questo, credo sia utile dimostrare che da un lato abbiamo la Cina che adesso ci manderà un sacco di materiale, e questo credo sia utile a tutti, perché mentre stiamo ampliando le forniture, so che anche la regione è riuscita a fare una serie di acquisti, la Cina, che in questo momento è riuscita a comunque limitare i danni, ci darà una mano. Dopodiché questo rientra sempre nel discorso prima di un'Europa di nani, dove alla fine vengono fuori gli egoismi di ciascuno Stato, e quindi in questo momento direi di lasciare un po' da parte la filosofia e pensare a tutelare l'Italia, gli italiani, e poi sapendo e consapevole che il governo e lo Stato italiano sarà a supporto per coprire la parte economica di danni e soprattutto per far ripartire il paese. Però oggi noi dobbiamo difendere le vite umane. Guardi, il resto è tutto secondario. Credo che basta che ciascuno di noi lo pensi per se stesso, ed è fondamentale informare le persone, perché continuo a vedere tantissime, ricevere tantissimi messaggi di persone che sottovalutano il problema. e sembra quasi che sia una fobia sovradimensionata. Invece guardate che il problema esiste e qui ne va della vita delle persone, dei nostri cari, dei nostri figli. Ecco, io sono, credo che sia fondamentale che in questo momento gli italiani siano egoisti, tanto per il cui vogliono difendere se stessi e i loro cari rispettando le prescrizioni. Gallera, può smentire o confermare, come circola ormai da giorni, che stia avvenendo negli ospedali il triage, inteso non come la selezione al pronto soccorso, ma la selezione di chi, è brutto dirlo così, però così è, di chi deve sopravvivere e di chi invece può essere lasciato andare? No, lo smentisco assolutamente. Abbiamo molti ospedali che sono veramente in una situazione di straordinaria pressione, dopodiché il sistema sta reggendo e li stiamo aiutando, quindi può essere che in alcuni momenti, in alcuni ospedali non ci siano posti a disposizione, ma lì interviene il sistema regionale. Ieri a Cremona c'era una situazione molto tesa perché continuano ad arrivare, pensate che sono giorni che ci sono alcuni ospedali in cui arrivano 60, 70, 80 persone al pronto soccorso, tutte da ricoverare, tutte con polmonite, tanto per darvi la dimensione della quantità enorme. Ma in quel caso ieri abbiamo preso 8 pazienti e li abbiamo spostati in un altro ospedale. Sempre a Cremona l'altro giorno abbiamo fatto atterrare un elicottero militare, abbiamo spostato un paziente in terapia intensiva a Sondalo, dove abbiamo aperto dei posti letto di terapia intensiva. Abbiamo già spostato 30 persone fuori regione grazie all'attività della centrale nazionale che gestisce le terapie intensive. Cioè il sistema regge e chiaramente sempre con maggiore fatica, e quindi non sono vere quelle indicazioni, o meglio, a volte quando si è lì si fa una scelta del momento su chi e qual è la persona da intubare prima e quella per la quale invece chiediamo un aiuto esterno e che magari viene intubata dopo qualche ora e in qualche altro ospedale. Posso chiedere a tutti e due una risposta flash? C'è ancora, non so quanto sia fondata, l'ipotesi di un supercommissario. Mi sembra tramontata l'ipotesi Bertolaso, perché lui stesso dopo le polemiche ha detto no, resto in Africa. Ci sono ancora i nomi del prefetto De Gennaro, che fu a capo della lotta all'emergenza rifiuti a Napoli, e poi anche quello di Ricciardi. Vi sembra opportuno, necessario un supercommissario? Lo chiedo prima a Gallera e poi a Buffagni. Ma guardi, noi abbiamo bisogno di risposte. Adesso qualcosa finalmente, nel senso adesso un po' di risposte in termini di approvvigionamento, di dispositivi e tante altre cose, sta arrivando. Poi se basta Borrelli, il capo della protezione civile, o serve qualcos'altro, a me appassiona molto poco, devo dire la verità. Buffagni? Guardi, a me il fantacalcio ho smesso di farlo da anni. Quello che credo sia necessario in questo momento è lavorare, ripeto, nell'interesse dei cittadini. Sul resto non mi interessa questa partita, ecco. Poi io mi auguro che si continui utilizzando i dati scientifici a prendere le misure che servono. Questo è quello che mi interessa, perché e a informare la gente di stare a casa e uscire seguendo le prescrizioni. Questa è la priorità. Il resto poi il presidente Conte farà le sue valutazioni e mi fido di lui. Grazie a Stefano Buffagni, viceministro dello sviluppo economico, e grazie a Giulio Gallera, assessore alla sanità della Regione Lombardia. Grazie ad entrambi per essere stati con noi e ovviamente buona giornata ad entrambi in queste ore difficili. Cara Maria, ci risentiamo ovviamente domani alle 8:20. Sì, a domani a tutti, ciao. Con tutti gli altri ascoltatori alle 6:30, Carmelo Lauricella regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in assistenza in redazione, Margherita Ine e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Dunque, a domani, ciao.